io ne ho uno autocostruito, c'è il circuito amato a Gianni e funziona bene. Ciao a tutti, ciao Gianfranco. Ma non ho capito chi era Vicco, buona... ciao, ci sentiamo. Giovanni, Giovanni, ando chiudendo stai? Sì, sì. Perché lo sento con l'eco, ciao Giovanni. Ciao Gianni. Ciao Giovanni, mi ascolti, sì? Potrebbe andare meglio, dai, comunque va bene. Ah, io ti ascolto, però non lo sentivo fra a casa. Adesso sto uscendo con la, sicuramente col 48. Positivo. Quello va bene. Usa quello, là che non si comprende nulla a voce. Esce basso il segnale dell'altro. Anche perché quell'altro c'ha 3 watt, per forza che arrivi basso. Adesso l'attacco io, quello che esce con 2 watt. E mi sa che questo qui è un polo alto. Se trovo uno schema, un po' di watt lo alzo, almeno a metterlo a 4. Perché esce con 2 watt, deve essere stato abbassato per usarlo con lineare. E cos'è il coso, il superstar? No, il... Bah, aiutami. L'Intec. Dimmi. La stazione base Intec. Ah, vanno a toccare quello già, che si può aumentare comunque. Ma non è normale come dovrebbe, è 4 watt che deve uscire dalla casa, l'hanno abbassato. Oh, fra, guarda questo qua, microfono, buono. Cappa, ti ascolto bene, fa un passaggio? Troppo, 1, 2, 3, 30, 40, 50, questo è un altro microfono normale. Va benissimo, Luca, una bombetta di lusso. Sì, aspetta, la differenza da questo, 1, 2, 3, prova. A questo, 1, 2, 3, prova, vai. Va meglio questo. Va meglio questo, l'altro non va bene. L'altro va bene lo stesso, questo rimane più forte del radio, però l'altra pure è buona come radio. Squillante. Ok, da. Questo è più squillante già. Sì. Già va bene, dai. E questo Gianni come va con il microfono? Bene va, sì. E vabbè, questo è l'MC60 comunque, è diverso da quello là. Beh. Che sia diverso, dai. Io ogni tanto vorrei accendere anche questo qua, adesso lo accendo. Giovanni, passate qui RT, ciao Giovanni, comunque buon correttino, ce la di ascoltare le prossimine, K, se ci sei ancora, io mi sono notato un secondo, è tutto qua, provalo già. Io invece questo altro microfono normale c'è la capsula grande, sì, sì vabbè, dai. Lo tieni in bruvati, di Nimo, giusto per, ecco qua. Questo va bene lo stesso, questo cos'è l'MB+4? Questo è MB+4, esatto. Va benissimo. Sempre la giocatura a basso l'MB+4, è sempre caccati, no? Va. Mi sapete avere un po' di fame, esce a vedere. Un po' di fame. Attenzione, Franco California, ascolti il doppio room, cambio. Eglia, 9:20, Radio 5. E questo qui è quello che c'è con 2 watt. Ma si muove in macchina la lancetta, quando lo metti a 1 kW lo si muove a me. Ah, va bene, su chi va? Ma va bene lo stesso. C'è una bella modulazione anche quello. Ma questa è la stazione base Intec. E la uso poco, adesso userò di più quelli che stavo usando di meno prima, userò di più adesso. E se la vendi, cosa ne fai? Quelli che non usi me l'avrei venduti già, cosa te ne fai? Ma non vendo nulla, no, certo non so qui, vendo, compro, qui ci perdo anche, capito? Non vendo più nulla. E si conferma già. E io adesso, vabbè, non compro più nulla. Non compro più niente per adesso. Tengo 747, va bene così. Guarda adesso Franco, ma sto uscendo adesso, 1, 2, 3. Ciao Claudio, buonasera. Adesso ci ha aumentato il segnale, Gianni. Lo sto provando a guardare. No, non li voglio Claudio, ti mani un po' applicato così in mano, ma anche no. Ci ha rivitato la luce di 420 euro. Buonasera a tutti. Ciao Claudio, buonasera. Ma infatti non levare la candela, cosa ti rivai? A farmi da sesso da prefigatore. Uia! Ma statene tranquillo. Ciao Claudio. Ciao, buonasera a tutti. No, vabbè, quelli che ho mandato le foto così per ridere. Ne ho due grossi, ma anche dentro l'armadio, figurati. Ne ho due grossi che avevo comprato qualche anno fa. Poi c'ho 747, c'ho il micro 7, tutto lo stato solido. Ma non ne va nulla, non mi ha chiamato benissimo già. Va bene, il parere che non ne vale più la candela a spenderci i soldi, perché non c'è più nessuno in questa frequenza, è abbandonata la 27 oramai. Ma qualcuno nuovo sta entrando, se ci sanno tenere le persone già restano, se gli piace, se vedono che c'è influenza di gente, che si scherza, si fa, già rimane. Io sono sempre un ascoltore e vedo poco traffico, tranne voi, poco traffico c'è comunque, a chi piace, può entrare, rimanere, fare, disfare, vabbè, adesso è tutto a salutarci, baci e baci a tutti, ciao. Papa, grazie per i saluti, contraccambiamo. Comunque, dai, qualcuno sta entrando, come stanno entrando nelle bandiere amatoriali, i nuovi entrano anche qua. Gava. Ciao Claudio, buonasera, come vai sull'altro pianeta? Quest'estate vedo un po' di seguirvi su quel pianeta. Ok, dai, vai già, e infatti, ma poca gente, non più come prima già. Stai studiando. E allora, è certo che sì. Sento che quest'anno devo ottenere per forza la patente, dai, non frisero. Vabbè, sono contento. E quest'anno ce ne sono altri, anche della 27 che danno gli esami, non sei da solo. Sì, c'è anche Tore, deve prenderlo, lo stesso sta preparando anche lui. Io, beh, Tore uno dei... Ma di quelli che fanno qua le 10 ce ne sono 3 o 4. Eh beh, te le tremala. Poi a tu. Ciao, Babbo lì. Allora... Ciao Antonio Bombo, buonasera. Buonasera a tutti, e chi è l'altro più basso? Avanti. Io sono Antu, sono io con un baracchino a 2 watt, come mi ascolti? Benissimo. Sì. Ho detto, se hai fatto quel lavoro che dovevi? No, non l'ho ancora fatto. Vabbè, vuol dire non hai avuto tempo. Quando ci avrò il tempo lo faccio. Cavagala. Vabbè, c'è Franco, c'è Claudio, non so se rimanga, c'è Luca, sono io. Buonasera a tutti comunque, che non ho fatto l'ascolto, sono entrato così e basta. Anche vado vicino, sì, a casa. Tipo. Per quello è. No, vicino, ecco. Sicuramente ci vivi a Milano. Arrivi, non mi va. Lo posso immaginare, claro, arriverà dove 40. 9:20 arriva, un po' più avanti, 9:20. C'è un segnale di quelli allucinanti, 9:20. Vabbè, io lo vedo a lui perché sono sopra la collinetta, è più vicino a me adesso. No, già non rimango perché adesso mi sistemo il cane, poi ci uscire un po' fuori, ho già acceso tutte le luci e poi c'ho anche gente a cena, c'è la partita stasera, c'è la Champion, quindi vado a preparare, dai, baci a tutti di nuovo, mi ha fatto piacere avervi ascoltato, ciao, qua ci sentiamo. Ciao Claudio, saluta in casa, ce la riascolta, vai Bombolo. Ma chi è che ha chiuso? Stavo parlando qua. Claudio, ciao Claudio, ci sentiamo. Ciao, ci sentiamo. Tanto ti stavo dicendo, ma dalla moto stai modulando. Cattivo. Ah, nella cabina l'hai piazzato lì. Sì. E andava. Qualche altro non lo stai pilotando, qualche verticale di macchina. Cosa verticale di macchina? Con la Ringo. Così almeno tutte le macchine le collega con i baracchini, invece che telefonare usiamo la baracchina. No. Io ti giuro, quando vado un tempo libero, 5 minuti, entro così e basta, niente di particolare. E fai bene. Ma la malattia è bassa, mia, cosa? Cioè, io bisogna tutti riparati da fronte, la tenna non è bassa. Se la metti più in alto, allora cambia la musica. Vabbè, basta, comunque ti ascolto bene lo stesso, il segnale è buono. Già, non credo, già. Ma io ho detto che arriva in Santiago 5 lì. Cosa si distende? Che sei quasi 9:20, no? Cosa si distende? Questa radio non nega. Questo spinge è forte, sta pilotando e sta uscendo con 20 watt, posso ancora aumentare qua. E io quando arrivo a tu? Non è che quelle. Quando arrivo lì a tu? Attaccato vai a papà. Tu dimmi quando arrivo, sto usando un'altra cosa. A base di 9:25, ma fa di nevare anche. Aspetta, tu faccio un passaggio con un'altra radio a vedere. Comunque già lì, quanto arrivo lì in quella zona? Ha detto lui, lo vuole portare 9.5, no? Sì, 9.5 siamo. Antonio, guarda adesso quanto ti sta arrivando, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, va avanti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, prova radio 1, 2, 3. 2, 3, prova, come è qua? Hai aumentato il radio, fa. Sì, ma è una bella numero, non siete. Guarda un po' Antonio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, prova radio. Va, si è a bomba, proprio, si proprio a bomba, bomba. Quindi spinge bene, va bene, sì. Sì, sono a bomba, è un'occhio. È un'opparanza, già si vede la differenza. Capito? Devo credere. A Roberto... Roberto su, gli arrivo 9.40. Beh, andare, andiamo bene, andiamo. Via. Beh, avevo separato in campagna. No, negativo, Antonio, ci sono sceso perché non sta molto bene, capito? Sono uscito stamattina presto e invece ho preso colpo d'aria. Grande luce, si è fino a casa, non uscire. Freddo a prendere un manzano. No, ma non avevo febbre, niente, capito? Me ne sono stato a casa, al caldo, perché ho detto, se uscivo stasera magari poi faccio la figlio, quindi me ne sono stato con il cazzo al calduccio. Ti devi coprire, metterti la sciarpa, quando esci così, ti bisticheggio. Ha fatto bene. Ecco, la mia duccia, c'avevo il coso, la... salva collo, tutto è morbito, guarda, ma ha pizzicato una tessi già, lui. Gli sbalzi di temperatura sono tremendi, Allora, infatti mi sono preso una spinina, alla grande, mi sono messo al caldo, al latte e miele e a letto. Ma adesso già sto bene, dai. Non sono voluto uscire stasera perché non avevo tanta guglia. Adesso domani si vedrà. Ho messo, se sto bene domani esco, se no me ne sto a perso. Latte e miele a Brusuli, sta pagata, dai. E vabbè, già bassa. Raffreddore già passa il freddo. Oh, sono rientrato, eccomi qua, che bello. C'ho una fame, guarda, appena ho mangiato un attimo col prosciutto e il burro. E mi ha giocato un'altra, va, prosciutto e mozzarella. E Luca. Allora tu, dove sei? Non lo so dove sono. Ma io vi devo salutare, dai. Ce la risentiamo, ciao ciao, perché devo andarmene, ciao ciao a tutti. Che sentiamo dopo, tanto se ci sei. Ciao Antonio Bombolo, ce la riascoltare prossime, ciao ciao, ciao ciao. Fammi una volta, Luca, come sei messo? Ma perché hai baracchina? Sono preso il tuo posto, no? Baracchino, un casino, cioè ho messo tutto in un mobiletto stereo adesso, capito? Devo sistemare bene di nuovo e sistemare le cose qua. No, ho capito. Una volta che c'è della cosa, che prendo la patente, sistemo con tutto qua. Si butta giù, si mette un'altra antenna diversa di quella, capito? Un'antenna VLU e un altro tipo di antenna di lusso alla grande. Avanti già. Eia. La giornata di pure di Santera, quando è che la vuoi? Buia già, quando c'è buia, sono sempre incasinato là. Campagna, casa, campagna, più giù, più su, è un casino. Sono incasinato perso sto periodo. Non riesco a fare neanche le cose mie, pensate, adesso devo cambiare il giunto genetico della macchina, capito? Che l'ho già comprato, non devo cambiare. Tu glielo fai? E allora, la meccanico la buca, io lo faccio tutto io nella mia macchina. Ho fatto già l'antreno, anteriore, capito? C'ho il cavalletti, c'ho le attrezzature, più in campagna non lo faccio, addirittura c'ho anche l'estrattore per togliere il coso, il giunto genetico. E se lo sai fare, fra? Beh, c'ho l'attrezzatura già, perché devo pagare al meccanico, non capito? E appunto. Senza non i muri di là. L'unica cosa che l'ho portata a fare della macchina, l'ho portata a poco a fargli la distribuzione, ma basta. Poi per il resto freni, tutta quella baradana, cavi, funi, quella roba lì me l'ho fatta tutta io, capito? Tutta la macchina anteriore me l'ho fatta io, ammortizzatore anteriore l'ho fatta io. Adesso ho quel problema che c'è, sto giunto che mi stava facendo un po' di rumore e quindi non lo cambio, e gli cambio anche il cuscinetto, visto che ci sono. Adesso ti prendi il cofano già pure. E il cofano lo faccio fare, non lo faccio io. Lo porterò da Roberto e me lo faccio fare da lui. Chiaro, tanto va già. quanto consiglio di materiale adesso ci vogliono più di 150 euro di materiale, capito? Gabufulenti? No, non sono gabufulenti, sono gabufulenti. Quando cominci metallizzato, fondo, trasparente, cacchi vari, arrivi sulla 130-140 euro. Per un colpo. E la carta di invidia con carrozziere? Sì, vabbè. Però se lo fa il carrozziere è una cosa, se lo vendi un'altra, no? Lo faccio io, c'è una cagata, capito? E non le hai fatte anche le altre fatte? Quelle lì le ho fatte perché erano pezzi piccolini, ma il cofano non è piccolo, no? Come faccio qui di fare anche il cofano? Te lo dico io come la devi fare. Sì, vabbè. Non prendo il materiale per farlo, capito? A parte c'è un compressore che quello che ho io non va bene perché è un 50 litri e ci vorrebbe un compressore almeno di 80. Ho capito, vabbè. Non te la senti più di farlo, No, non è che non me la sento di farlo già. Se ho un pezzettino va bene, ma il cofano è grande, quel compressore da 50 litri, non ce la fai, capito? Perché magari stai spruzzando, ti manca l'aria e esce un casino. Lo so. Già lo so che è così, e a volte sgocciola, lui, mamma mia. Io ho comprato una bomboletta una volta, ragazzi, vado a vedere questo coso, questo coperchio che l'avevo fatto liscio, proprio bello, vado a vedere e gocciolava la bomboletta, sfruttava le gocce. Sì, per carità. Mare, ti fa il coppa, la sgoccia, poi riprende le mani, cominci a carteggiare, a buttare le vernici e lui lascia stare. Sì, è così mi è successo. La bomboletta difettosa c'era, se l'avevo fatto perfetto. Poi mi sono talmente incazzato che ce l'ho buttato via. Era di un alimentatore, qua. Ho preferito lasciarlo senza coperchio piuttosto che stare a carteggiarlo, lì ho potuto gatto, a pulirlo, a fare. E infatti che vai la candela, qui. Se di meccanica, vado in meccanica, ma la faccio io, ripeto, meccanica, rinfuri della cinghia di distribuzione, e quella non è poco, però per il resto, marmita, tutta l'altra parte meccanica me la faccio io. E fai bene, se ne sai fare, fai bene a farte. Vabbè, passiamo adesso a Ruiz, che da un po' che non l'accendo, adesso accendo quello là. Allora, io ho ordinato tutto l'avantreno della 147, tutto completo, ammortizzatori, tutto il kit, 450 euro. Chiaramente, no, come l'ho fatta io, tutto lì. Vado, Gabriello. E voilà, non siamo arrivati. Allora, hai capito già, ti volevo dire. Ho fatto tutto l'avantreno. Tanto quando sono andato a questo meccanico, non ti dico chi è, perché, se no magari... Ma lui, siccome deve essere rotta la fune fra la mano, la parte destra, no? Ho detto, scusa, per cambiare le fune fra la mano, quanto ci vuole più o meno in su? E guarda, se le fune me le porti tu ci vorranno un centinaio di euro. Ho detto, come mai così tanto ci vuole? Mano? E sì, sai, perché bisogna smontare tutta la vanita, portare giù la vanita. Ho detto, ma sicuro sempre la portiamo? Sì. E invece non era così. Ho sollevato la macchina con due cavalletti, quattro cavalletti di quelli buoni, però cavalletti di lusso. Sono entrato sotto, ho mollato il freno a mano da sopra, l'ho allentato, ho fatto scendere la fune, l'ho sganciato dai tamburi di dietro, e ho messo le fune nuove, ho rimesso in tira a posto. Ci ho messo là in un'ora, l'ho cambiato tutti e due. Cappa gatto. Fra, parla che ti attivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ora, 1, 2, 3. Ecco qua, fa. Attenuato, troppo forte stava arrivando lì. No, perché... Andavi fuori lo scala, cavolo, e se no mi faceva la ricetta dello Smith. Addirittura. Qua sto scendo in basso, 15 minuti sto scendo già, addirittura. Se no non posso abbassare ancora. Guarda un po', 1, 2, 3. No, non c'è bisogno di abbassare, già te lo regolato io, non ti preoccupare, fra. Guarda adesso io come vado, 1, 2, 3, 4, 5 con questo microfono super. Qua sta arrivando 9.40, però siamo vicini, la radio va bene, non problema. Kappa, sono contento per lui, ogni tanto bisogna scenderlo perché questi apparecchi sono antichi, non si sa mai che si bloccano. Questo qui l'avevo pagato bene, però è un bel apparecchio, lo volevo e me lo so preso lo stesso. È una bella radio quella lì, sì, l'avevo vista, è nuova, nuova, va bene, via. No, io già non compro più niente adesso, per adesso no, poi ti lascio vedrà, dai, non è che... magari mi compro qualche altra radietta più bella, vediamo un po'. Ah, io ho cenato. Se mi metti un radioamatore, dovrei comprare radio, dovrei comprare antenne. Vabbè, radio. L'HF c'era, i 80, utilizzo quello, capito, magari l'antenna saranno a cambiare, metterò qualche antenna in più, però ci devo spendere tanti soldi, eh. Sì, vabbè, si può fare anche con un dipolo, Sì, vabbè, dipolo qua è un casino, Gianni, da me. È un casino mettere di cui, capito. Vuoi da un palallato del televisore? Si appusta. Io via, già rompono le balle qua, figurate un po'. Se ne fanno pensare anche di puri, magari una cantante in più la posso mettere, ma di puri lui lascia stare. Comunque, fammi vedere un po', no, questa settimana, la prossima settimana vado a vedermi la corrida. La prossima settimana? Vado a vedermi la corrida. E dimmi quando vai, solo va. No, in compagnia. La corrida dove? Sì, la fornate come si chiama? Quello comunale del teatro. Il teatro comunale, bisogna prendersi i biglietti, dove li compri i biglietti? I biglietti, c'è il numero. Se vuoi te lo procuro il numero già, fammi sapere. C'è Antonio e la ragazza che partecipano alla corrida, capito? Se vuoi ti procuro il numero. Allora ci vengo di sicuro. Quanto si paga a persona? Allora, giù 13 euro e su 10 euro. Va bene, dai, è un prezzo abbastanza buono, dai. Va bene. Ma ti facciamo mandare il numero, lo vuoi già? Sì, mandamelo su WhatsApp. Ma il biglietto dove lo compro? Questa qua ce li ha. Li vende la moglie di coso, di Cristian Luisi. Ah, ho capito. No, pensavo che fossi solo, sarei venuto con te perché la mia compagna non può venire, non c'è Green Pass. Ma capito. Ma c'ha biglietti mi già. Poi se vuoi venire e devo andare con Marina. Tu con Marina va? E allora? Perché lei è la sola. Aspetta il controllo. Ma sta portando un po' di pentole, un po' di gusciare a far casino. Allora, aspetta, se trovo che l'ha messo lui, vediamo. Dovrebbe essere qua. Gappa. Vabbè, chi deve cantare? Antonio o la ragazza? Tutte e due. Tutte e due canta. Scusa, se cantiamo anche noi scende la pioggia, non paghiamo il biglietto. Ma sai chi c'è già anche? La grande corrida della sera c'è la signora, che cazzo diciamo, ma non metto. Comunque, allora, vediamo, se c'è, ecco qua, c'è dato il numero già, i infobiglietti. Vabbè, lasciala. Vabbè, non tanto, solo non ci vengono. Pensavo che tu fossi solo, sarei venuto con te. E solo non ci vado. Se non è che viene qualcuno con me, allora sì. Ma di sabato è? Allora, è il 26 marzo. Risulta? 26 marzo è di sabato, sì. Di sabato sempre lo fa. Io capisco, se mi interessa già vedo. A questi due video la sera faccio questo risultato. Ma io mi allontano, vi saluto e vado a cenare, dai. Ciao Luca, ciao Gianni e eventuali amici che sono in ascolto, per me il QRT. Se coincide più tardi, se no domani. Ciao ciao. E che te non me l'ha accorto dall'orario, fra. Io te mezza, che te non mi avete avvisato, devo fare un gare. Vabbè, dai, ci sentiamo Luca, dai. Statemi bene, vado via anche io, perché non pensavo che fosse così tardi. Le 8:30, 7:30 so. 7:30, so io allora e basta. Allora, ho visto male io lo vuoi. Aspetta, c'è questa qua, ciao fra. Signora Agnese. Ma quest'anno ci sono anch'io, anche perché chissà il bingo che ci sarà su quel palco. E allora, vengo io prima del no della pulita, in quel teatro, ma mi raccomandomi, non mancate che quest'anno è meglio degli altri anni, allora, e voi, e poi presentato sempre da Cristiani, e allora quel bel masciottone, ogni pezzo di ragazzo, piccola, poi Cristiano lo vedete mai pettinato, e allora, e poi portate roba a fare mangiare. Antonio, il 28 canta. Ci dovrebbe essere anche lui, non sono sicuro. Sarà c'è. Si chiamano oggi. Stanno cercando concorrenti già. Se volevi andare pure tu, partecipavi e chi lo sa, chi vince vince. Cavagava. E cosa vince il primo classificato? Non lo so, quanto non te lo so dire, solo di no. Ha preso qualche coppa. Ma tu già hai partecipato l'anno scorso, sei andato un bel po' di volte. Come, scusa? L'anno scorso sei andato un bel po' di volte, vecchio. Ma di volte mi sono andato, sono un bel po' di volte. Sono andato, allora, fammi vedere. No, quella non era la corrida, no. Una volta mi sa già, ma un caldo, è Sant'Antonio mio, caldo. Qui facciamo 30 gradi dentro, anche di più. Ma l'estate era? Inferno. Oh, yeah. Sempre di marzo, febbraio-marzo. Cappa. Già deve essere bellino, divertente, a fare casino. Infatti. Non ti portavo la campana? Fischietto. non venne anche qua vicino a casa, i fischietti quelli da vigile. Ma così c'è la funerale di Torre, Torre Mura. Quella è la chiesa di Porto Torre, sia molto carina, quella vicino a Conate. Ti vende una ragazza in Porto Torre? Cosa? Ti vende una ragazza in Porto Torre? Che cosa? Il biglietto. No, ma sta arrivando troppo forte, non mi capisci quando parlo. Ho detto che oggi c'era il funerale di quel tipo di Porto Torres e ho detto che la chiesa è molto bella, non me l'aspettavo che fosse così bella, bella veramente. Quella che c'è vicino al Conad. Ah, ho capito, quella che c'è la salita. Sì, ho capito. E lì l'hanno fatta anche a Giampaolo Silvestro. Ma quella chiesa lì, ho capito. E vabbè, purtroppo. Anche lui se n'è andato. Tanto già alla fine era lì, un po' stava bene, un po' era un po' così. Poi le cellule si sono espanse. E sono una metafora? Sì. Proprio così. Quando è così, solo a Dio ti può rivolgere e basta. Ho visto che c'è una cura speciale, capito? Lo so, e purtroppo. Ma io me lo ricordo che ce n'era uno così pelato che faceva il buttafuori una volta che c'era uno spettacolo lì a Porto Torres, c'era lui e Vittorio Kirchi. Cosa c'ha il fisico? C'aveva il fisico da palestrato. Aspetta, non ho capito, ripeti già, scusa. Ho detto cos'aveva un fisico palestrato. Ma c'è un po' l'amplificazione già. Cazzo, io non gioco. Cioè, io non mi arrivi troppo volti, un bel amplificato, abbassa. Ma l'ho abbassato pure, l'ho messo a due, ecco, così vale mi capisci, vai. Guarda, così ce l'ha a due, va bene. Cazzo, un bel forte, che microfono era attati. Minchia, spingi una meraviglia. Guarda, così a uno, di me non posso farlo. Prova. 1, 2, 3, 4, 5. Adesso va bene già, ti ascolto benissimo. E non mi hai amplificato, cazzo, un bel forte, molte volte non ti capisco. Magari dalla vicinanza fastidio. Questo qui è un microfono che io ho riesumato. No, va benissimo. Ma sai che c'era un tipo nel gruppo CB, quello vabbè, adesso non mi ricordo esattamente come si chiama. Lo stava prendendo 200 euro la statica. E costano un bel. Allora, quando diciamo i vecchi tempi costava sulle 75.000 lire. Picchiata, ma 200 euro. 75.000 lire io l'avevo pagato, io ci avevo per il diavolo rosso, sempre della Static, che rimane il rosso, Red Devil si chiama. Ah, ecco, ho capito. Vabbè, comunque già spinge, c'ha la capsula in ceramica. Sì, ceramica ce l'ha. Spinge un bel, sì. E poi con lui si fa benissimo. Io gli ho messo un cavo lungo, sarà, a dire poco, 2 metri. Addirittura, minchia, 2 metri. 2 metri 9, 1,5 metri forse c'è. E praticamente sono andato a Fusano a comprare un cavo a 5 fili. E aveva solo questo qua lungo. Ha detto c'ho solo questo. Quanto è? E ha detto ah, questo qui mi va bene, così quando sono coricato mi posso girare tutto. Se te lo faccio mettere asciutto. Ciao, questo tipo è a bocca aperta, la dentita sicuramente, cioè i denti gialli, fanno veramente schifo vedere due denti, e se mettono un prodotto e sapete come escono, proprio gialli mica, cosa ti posso dire, mettono le, no vabbè, ma come la buccia delle banane, giallo, cosa ti posso dire, giallo, questa è la chitarra, guarda, quella della chitarra come è fatta. Ehi. Che schifo, con l'erba bambina. No, sono di sicurore, draghi terra. Già l'unicottina. Che ratta. Poi c'è questa cosa, cos'è? Non prendi un po' di cose strane, lasciami dire. Ma questi diventano i bianchi. Perché stai facendo un basso di radio, ratta? Perché non vogliono uscire forte, allora devo uscire basso. Di nuovo così? No, aspetta che non sono. Di nuovo ho rotto le scarpe e subito, non mi intendi. Vabbè, riprendi lui. Beh, cosa hai fatto oggi già? Dormito? No. Io già lo sai, c'ho l'appuntamento, canto sempre la sera. No, addormentato no. Mi sono un po' rilassato nel divano e mi sono messo a cantare. Mi ha dato a te. Cantavo, sapete di cantare. Poi sono andato a vedere un lavoretto da fare, ma si è fatto il preventivo, se ha un fame, se no si chiama Caruvati, come si è visto già tutto il lavoro che c'è da fare, praticamente ti spiego, questo palazzo c'è un'antenna centralizzata, no? E non possiamo pagare più la luce delle scale, c'è la luce del condominio, ok? Cosa succede? Una volta che la luce la staccano, cioè un'antenna ha bisogno di corrente elettrica, praticamente una volta staccata la corrente la TV non la vedi più. Allora questa qua sarà stata messa per i fatti suoi. Devo fare un giro con il filo, uscire fuori dalla porta e agganciarmi alla scatola. Ah. Sì, vabbè, l'amplificatore, l'antenna è normale, va attaccata alla corrente, sì. E lo può fare per lasciare il filo penzoloni. Non c'è il filo penzoloni già, no. Che una volta che entro dal terrazzo, no? Buco, entro dentro la casa, faccio il giro, capito? Passo sopra la batiscopa con i chiodini, buco, esco fuori e mi collego, non si vede, non è a penzoloni il filo. Con i chiodini e niente. Ma lei è l'ultimo piano? Sì. Ah, quindi non penso vado a battere altre finestre, se no sarebbe stato quello il problema. No, non è terrato già, no. Praticamente lo... Ma te ne accusa voi? Non c'ho nulla, guarda. Quelli che non c'ho, ma si può da mangiare voi? Se mi sarà fatta un tre mangiata, cosa vuoi? No, guardate che faccia di merda. L'anchetta è stato sfogliato, lo mangia più metti prima, boh. E ho i calori, magari sente odore di cagna in calore e non mangio. Ah, sento odore di ciccio così? Mangia pochissimo, devo stare anche a girare la roba, fargli vedere la carne se non tocca nulla. E ho detto, sento odore di ciccio, già, lo sa, è il ciccio. E non mangia, vabbè. Guardate qui, che non ho mai visto i problemi già. Allora ti dico, mangia una merendina. No. Ecco qua. Un dolce, da salato, mangiato, poi dentro la frutta. Ho detto roba veloce, una giugana qua. Una giugana che butterà nuda. Ma comunque il telefono c'ha il problema dello smister. Oh, sto molte volte sale, molte volte non sale. Stavo controllando i trimerini, ma non ce ne metto mani già, non aggiungare, lì ci vuole un tecnico, se così sa cosa è, cosa non è. Vabbè. Vabbè. Ma il telefono a casa te lo porti? È già qua. Ah? Perché si sta accaduto, altro sabato sta con l'antenna. E ti macchino giù, basta. Ma allora, tutto a posto quella roba là? Quale roba? E già mi hai capito. Quella che non era a posto di giorni scorsi. Insomma. Sì, da. Tornato. Ah, è così, no, no. Guarda, ho una scelta. Ma da funerale. Lo conosce anche tu. Anche tu le mura? Sì. Sono un amico nostro, certo, la moglie, i figli. Frequentava con noi. Cioè, frequentava, veniva a trovarci, da. Noi ci andavamo a Porto Torres, facciamo delle feste, vattene a cuccia, vattene, va, vai. Vabbè. Hai visto anche tutti con i Nari Blas? Innamorati. Ed si è innamorato di un'altra, dico. Eh, magari una moglie così occa non la sopporta. Sicuramente. Si bacia anche a Filippo in bocca, non l'hai vista? Ma chi la ribrasi? Non si capisce, detto, ma se passa, la bacia per bocca. Tanta la lesbicona, già. No, lesbicona. Vabbè, dai, meno uno domani, dai, meno uno. E poi, vediamo un po', dai. Ah. Prima era il vostro cavolo di punti, se no questa cosa non lo sarà più. Ma tu non è che mi vedi come ti bomba lì. Quando mette l'antenna bene. E chi? Bombolino, bomboletto. Ah, da su, cavolo. Mi pompa forte, lì davvero, schicchia davvero forte lì. Già lo so, alla grande. Anche per i paesi, solo che il tempo non è, e quando dove da principale si può la modulare. Sì, vabbè. Quando non esce fa due modulate, sempre se c'è gente. Che appagato. Ci ha fatto due stazioni, dai. Poi non avevo dubbi, allora giuro. Ah, diciamo che giuro l'ho piazzato anche per un motivo, due motivi. Uno, vabbè, così vai, sono annoiato, due chiacchiere in più, per tenerlo sempre in funzione quello. Questo quello lì rimarrà fermo, cosa avete l'attacco? A meno che attacco qua sotto dove c'era l'altro, vedete tanto me lo uso. Comunque questo lui si va bene, lui. Sì, benissimo già. E adesso era un po' che non l'attaccavo, adesso sto andando a 12 volte, non sto andando a 2 finti, sto andando a 12. Sì, va benissimo, no? Beh, benissimo. Perché posso attaccarlo sia a 2 finti che a 12 volte? Sì, no, va bene già, la grande, giusto. Bello illuminato. Io ce l'avevo lo stesso, tipo quello. La volta a Roberto, mi si piace, glielo chiedo, mi manda la foto. Questo ha tre strumenti. E anche quello della volta a Roberto io. Io già, te la compri questa? Cosa, Grazie? Questo baracchino te lo compri. Un baracchino è? Sì, un baracchino è. Marco, io racconto, ci sei? Te ne ricordi di darmi la scatola del 3009? Ha detto che ne ha due lui. Beh, già, ci sei. Sì, io sto secondo. Luga. Attenzione, Natalino. Ma ci mangia due. Un dolce, ah. Sapete, grazie a Dio non ne ho. Speriamo che non prenda la parte di mamma. Speriamo. Aspetta. Ehi, già, l'ha dato questo, dove l'hai comprato? Questo in continente l'ho preso. L'ho preso da un collezionista. Ce l'aveva in vetrina, poi ha detto che era diventato la diamantone, stava avendo tutte le stazioni in base. Se me ne interessava altre, ne aveva altre, anche belle. Poi mi ha mandato tutti i nomi con le stazioni che aveva, ma non ne ho preso altre perché questo qui che ho pagato una bacca di dinami. Un bel costa quello. E oltre le 250 euro, 230. Vabbè, alla fine, vabbè, una radio vecchia, te lo dà conto. Ma originale, o rifatta? No, è originale proprio, c'ha anche le istruzioni, tutto quanto. Ai. No, già è bello, l'ho vista. È l'altro messaggio, chi è? Riesci a vedere? E vedi, cos'è questa cosa? Linea delta G, B205. Vabbè, assimiliavi, sì. Avendo Luca. Natalino, ma scherzare lo stato, te la sei venuto a vedere. E io adesso mi prendo tutto, là, tanto no, non c'entro a parlare, quindi cosa me ne vuoi? Come non c'entri? E non c'entra davanti. E adesso, ma per non bisticciare, è meglio che mi prendo tutto. Perché di nuovo le scatole ti ha rotto? No, altro rompimento, A dopo? Sì. Beh, ma ci deve essere, diciamo, degli spazi per l'uno e per l'altro. Sì, vabbè, però c'è chi lo capisce e chi no. Siamo limitati, Natali, come si vede. No, io la verità sono abbastanza libero. Cioè, metto la radio, lì ci metto a cantare, io non metto un po' la radio, e poi usciamo insieme, tutto quanto, però un po' di spazio per l'uno e per l'altro ce l'abbiamo. Che io ho quei problemi, Natali, anche io non sono così solo, infatti da radio l'ho staccato, e come dire, c'è un problema. E infatti... No, non fanno. Poi a me, siccome non riesco a pigliarmi la patente, no, è inutile che tenga tutta questa roba. No, signor, insomma, che si baracchina ne metto ubriaco di niente. Io non di la favola. Specialmente le coppie, nelle famiglie, sono quelli che non capiscono. Noi siamo d'accordo così, che ognuno deve avere i suoi spazi. Poi ci sono i punti di incontro, ci sono i punti dove stiamo insieme e cose, però ognuno può avere i suoi spazi. Se hai ripresi canta, canta, io canto un po', poi mi attacco alla radio. Ehi, vabbè, mi ha fatto che lo puoi fare. E sai cos'è? Che lì la casa è piccola e... In chi bisogna, Natali? E infatti, quando ero in campagna c'avevo una stanza solo per i cavoli miei. C'avevo anche il letto, mi guccavo buco in chi. Da solo d'arte, mi ripusavo. E non lo so, se vuoi te la descrivo pure la tua camera. Il letto era dietro. Dopo davanti c'avevi tutti quanti le cornici con i diplomi, con tutto quanto. Nel radio davanti, tutto quanto bello messo. Allora, ma abbi la scrivania, se volevo scrivere, potevo scrivere, potevo fare quello che volevo. Certo, ci avevi l'alimentatore della ZG su mano. E adesso ne ho due, di alimentatori. Ma che alimentatori sono? Quelli, uno è da 35 e l'altro è da 30, quelli con gli strumenti. Della Switching? Uno è della Proxel e l'altro normalmente di cosa è? Della... Delta, mi pare sia, comunque sono tutte e due uguali, da. Io ne ho uno da 35 ampere della Intec col trasformatore interno e gli strumenti davanti, quello è bello davvero, ma occupa troppo spazio perché è grande, quindi l'ho tolto e ce l'ho nell'armadio, ancora non lo sto usando, se trovo a vendere ve lo vendo. Scappa. E quelli sono belli? Ma Natali, troppo spazio ci vuole, io ho tutti gli spazi completati, proprio tutti, non c'è un angolo che... Tutti i trasformatori, baracchini, strumenti vari, capito? Non c'è più spazio, microfoni. Davvero? Davvero. C'ho il Turner Q3 come microfono, lo ZG, come si chiama il tuo? Blu? Bah. L'MB più 4. Poi c'ho questo, la V508. Ah, la V508 l'ho avuta anche io. Qual è quello che c'ha i cursori per farlo andare nelle frequenze che vuoi? No. Questo c'ha i tasti up e down, poi c'ha l'affare per la portante, VFO, MR, PF, funziona tutto qua. E c'ha due attacchi di coso, due radio puoi far andare. Ah, ecco. Ho capito. C'ero messo, non mi ricordo se era il V508 o una 507, se non me lo ricordo, c'aveva i cursori, tu potevi mettere i bassi, alti, potevi regolarlo. No, tu stai dicendo un altro microfono, no, questo è tipo l'MC60 e che c'ha due attacchi, uno per l'ICOM e l'altro per la key input. Ah, ecco, capito. Andava, andava. E va, ti da segno, più andate ci sei Natali. E come facevo? Sto con Maradu, cosa andi? Se non posso fare due passi che mi fa male la gamba di brutto, che c'ho un aneurisma grande quanto è una palla a tennis, se scoppia quello crepo. E guarda Natali, tu sei attraverso di vuole sotto la macchina, poi grippa, quindi non devi pensare a quello, devi pensare ad andare avanti da voi. Il giorno che ci tocca ce lo abbiamo. E io lo so, infatti sto andando avanti. Adesso speriamo che mi abbassi la pressione, perché ho sempre la pressione alta. Cazzarola. E Basilia, prende dove stai? Ne so cubigliando di sé, di Basilia. No, dico per la pressione. Per la pressione, per il cuore, insomma. Già ne so cubigliando, una per il diabete. Tu sei io 9. Cura a noi. Poi non mi ricordo più un cavolo, se no me l'avrei presa questo cavolo di patente, ma non ne ho voglia di studiare, no? Mi è passata tutta la fantasia. Poi se dà fastidio alla radio, una vale l'altra, mi dà fastidio sia l'una che l'altra. Lucrezia, riprendi. Lucrezia. E si deve essere spostato Luca. E poi non so dove mettermi le antenne, cosa fai? Anche se te la prendi, dove te le metti le antenne? È un casotto. Sì, che in campagna puoi di fare sui di Biasia, di puri, antenne, tutti i tipi di puricchi. C'è ancora la multibanda attaccata che va da tutte le parti. In campagna potevi spaziare come volevi. Purtroppo lì sei limitato, addirittura proprio negativo piazzare nulla. Infatti, quando eri in campagna a Barrio Dardan, lì andi di poli, da una bacia all'altra, c'ho la X300, quella trombone, insomma, già ve ne fu uno o due di antenne, la mantova c'è. Basta andare a prenderti tutto e te lo inviti, te lo vai a dire. E cosa mi vai a dire lui? Toccherebbe rompere le scatole agli altri per poterle togliere. Poi sforzi, non è che ne busso va. Vabbè, ma quello è che tu non puoi fare più nulla. Vabbè, sono diventato un rottame. Esagerato, pure tu non ti pidi innanzi. Altro che esagerato, Purtroppo con l'andare dell'età succedono queste cose anche. Non possiamo stare sempre ragazzini. Già lo so. Quello che facevo prima non rubuso più fava. Andiamo. Avete chiamato, sì. Mi danno tutti, e io perché? Mi hanno richiamato a fare servizio a volanza, non ci voglio andare più, non ne voglio più fare. Mi piaceva, mi Natalia, anche mia zia, proprio ce lo facevo col cuore quel servizio, mi piaceva, a parte l'ambiente, perché abbiamo fatto tutti gli amici, le amiche lì, e stavo bene, però cosa vuoi, non ne ho più voglia, lascio spazio ai giovani, voglio arrecare l'ambulanza. E a me già mi stanno buttando gli altri voi. E anche a me già mi hanno portato dall'ospedale sino a casa, quando mi hanno operato. E a me mi stanno buttando d'urgenza invece. Ho provato l'emozione, invece di stare alla guida e stare con i cani. Infatti, il brivido del volo. E l'avevamo sempre regato di lui, no? Alla fine se ne è buttato a me. E cosa vuoi fare? Adesso bene, anche Roberto Sidi si è riscritto. Si è riscritto alla misericordia. E a me me ne è passata la gana, ovvio. Gianni, guarda WhatsApp. Dovrebbe essere... no, tu c'hai più pomelli però. Però guarda quello di Roberto. È diverso dal mio, è un altro modello questo lui. Il mio c'ha l'orologio anche, capito? C'ha l'orologio e il coso del canale. Dai, è simile, tre strumenti comunque, dai. Sì, è tre strumenti. e mio c'è anche l'orologio, io posso mettere o l'orologio o i canali. Ah, ho capito. Se metti i canali non puoi mettere l'orologio, se vuoi mettere l'orologio non puoi mettere i canali. Comunque, se tu lo vuoi lasciare fermo per dire è acceso, ti lasci l'orologio acceso e va avanti. Ia, ia. Già va bene, dai. E più c'ha l'allarme. Allora, blink, time, set, select, display, allarm, canali. Cioè, da canali a orologio c'è il tasto. Ia, ia. Mi sto guardando su 280, ma sto qua. Remitali! Cioè, Remitali c'è già. Ehi. E quale? Ci vuole 103? 300 va. E ci vuole 103. Ma nuovo l'hai comprato? E allora, nuovo di zecca. Come hai pagato tu? Sulle 270, però non ti arriva con l'attacco di dietro. L'attacco di dietro te lo devi prendere a parte. Sarebbe l'attacco di dietro? L'attacco del cavo lo devi prendere a parte. Cioè, praticamente, come spiegartelo? Cioè, ci deve avvitare un... visto. Poi va attaccato il cavo. Capito? Se no il cavo lo puoi mettere così, ma... volante, capito? Però questo qui entrano proprio i fili dentro. Ma cosa c'è domani? Cosa? Ciao Gianni, Luca. Sì, quella cosa che avevo accennato a Luca, che io sapevo che era compreso, non vorrei che avessero fatto la furbata di toglierlo dalla confezione del lineare e venderlo a parte. Infatti me lo ricordo questa storia di Gianni, gli avevo segnalato io il collegamento. Praticamente è quel pezzo in plastica, è una morsettiera dove tu colleghi i cavi spellati e stringi il cavo con le viti. Capito? Mi già, diglielo tu bene. Appunto non gliel'ho spiegato abbastanza bene, è una morsettiera dove si attacca il cavo. E praticamente a me mi è arrivato senza quello e vabbè, gli ho fatto un attacco volante io, però non andava bene, l'ho ordinato. Marco ha trovato dove lo vendevano, me l'hanno spedito e me l'ho fatto arrivare. E sì, adesso è perfetto, dai, perfettissimo. Andava bene. Ciao Marco, comunque buonasera, ci stavi ascoltando, orecchione. Ero coricato che oggi sono una giornata strana già, mi sento di una fiacca. Sì, ero praticamente sdraiato, vi ascoltavo con il ricevitore, con un pezzo di filo, con quel mini long wire che ti danno. E sì, mi ricordo, poi era lo stesso venditore del lineare, mica lo vendeva quel pezzo. Però mi sa di lonfiata, come se l'avessero tolto dalla scatola. Cioè, io non ho mai visto un lineare dato senza il connettore di alimentazione. Ti ricordi che c'era come dei buchi dietro? E vabbè, qualcosa si devono inventare per guadagnare. E poi ho sentito Luca che mi ha chiesto la scatola, già te la cerco Luca, la scatola del 3009. Ok Marco, ascolta Gianni, ma si può vedere questo spinotto? È possibile vederlo? Dove? Nel Remita. No, ce l'ho attaccato, non fa tutto. E dovrei attaccare tutti i figli, è un casino. Vabbè, ora come non lo comprare niente, adesso vediamo un po', se non sta qualche soldino. Questo però aveva chiamato in più, da. Quanti ne ha potenza? 100, 200, 300? Ah sì, scatti, aspetta che ti se riesco a fotografare, te lo fotografo. Ah sì, scatti, ci ho capito. Gap. Piacciata, avete? Io, colazione a Giubbatto, altro cenare. E la furbata non l'hanno fatta con l'RT95. Ma lato software. Maniera di rubare e non maniera di rubare programma. Credo di averlo il software. Però di altra marca, ma hanno detto che è uguale, cioè non cambia, cambia solo il frontespizio che quando apri il programma ti dice o CRT, o Retevis, o c'ha tanti nomi quella radio. Ma non funziona, ho già provato con vari programmi e non funziona. Ma non sarà qualcosa del cavetto, driver, perché io guarda che ho dovuto penare con Windows 10. anzi mi funzionava tutto con XP, con Windows 10 era una dannazione. Con Windows 10 non funziona, te lo sto già dicendo io. Ma se comprato te l'hai perché? Come Natalì? Se te l'hai comprato. No, assolutamente no. No, già era bello, però per prendere quello dovrei dare quello che ho io. Quello già lo sai qual è, no? Quello, il portatile camuffato da auricolare. Tanto non me ne posso nulla. C'ho anche due microfoni. Andrà bene Meda. No, io me l'ho preso, è bellissimo. Solo che mi manca il programma. Eppure secondo me qualche scamottaggio c'è, Natalì, mi pare strano, perché non lo so, vabbè. Perché il programma alla fine cosa vede? No, balle, dipende che artifici hanno usato. Ho provato quello del 778, momenti di Jama, quello del Micron, col Mirk ho provato, che c'ha proprio l'ultima versione e c'ha l'RT95, eppure non funziona. Ecco, sta il plug d'alimentazione, 15 euro costa. RM Italy, è tutta una puttidura, davvero, è fatina, è come ha detto Marco. L'hai trovato, hai visto quello verde? Gianni gli ha rilevato la quell'apparecchio lì con due buchi e mancava questo connettore, se no ti devi azzuffare a passare i fili, ma non va bene così abbozzato, cioè una morsettiera alla fine, secondo me l'hanno tolto dalla scatola apposta, perché se tu guardi lo schema, vabbè, non vuol dire nulla, ma lo schema elettrico, così lo spaccato, il coso, lì figura il connettore, vabbè, non vuol dire niente quello. Ma è fattibile passare i cavi dentro? Sì, pasticciandolo, però, cioè, una cosa nuova in garanzia non la toccherei assolutamente, a meno che non abbiano cambiato il loro modo di fare, non lo diano di serie, perché sicuramente la gente avrà protestato per questa cosa. Io li ho appoggiati senza fissarli, perché si può, non mi è arrivato, l'ho usato, però senza, cioè, l'ho entrati dentro il coso, ma ci vuole, per forza ci vuole quello spinottolino, se no non puoi stringerli, dopo li puoi inserire solo nel buco che c'è e lasciarli così, però non è niente di cosa, perché se si muovono ti può partire tutto, ti può partire fusibile. Forse Luca intendeva saldarli dentro, sì, li puoi saldare, ma devi manomettere, cioè la garanzia già parte lì, la perdi. Lo so, certo, sono tipo questo 747 al cavo, era corto, ne ho messo io lungo, ho aperto, saldati i fili dentro, sei a posto. Diciamo che non era semplice, però ci vuole un saldatore più grosso, più potente, da. Però dai, mi sono assillato e ci sono riuscito con il mio saldatore. Comunque sto notando una cosa, sto notando che sto ingrassando, quando mi metto gli occhiali mi rimangono le strisce delle stecchette, che non va bene. Ma cosa, stai meglio così che come di prima che l'agnolato? Ma ricco, aspetta, sotto, ecco. Antonietto, penso. Ehi, a dirmi che sto parlando con Sara, cosa c'è? Qui arrivo molto più forte, no? E quindi se uno si piglia lineare l'hanno terminato, cosa fa? Non alimenta lineare? Ma perché parte in 40 ogni volta? Allora ti ha detto, cosa hai detto? Ho detto, qua va molto meglio, vero? Beh, altra musica è quella. Ma anche da là esci bene, Mianto. Esci bene anche da là. Bene veramente. Aspetta quando la metto nel palo dove c'è l'antenna di internet. A ver si tocca. Vuol dire che hai fatto un ottimo lavoro, Anto. Nel connettore.